Salvadanaio. Sante, è interessante questo rumore di monetine, perché oggi parleremo di risparmi dando la priorità alle semplificazioni. Innanzitutto buongiorno da Irene Zerbini. Se volete partecipare a riscrivere in qualche modo il fisco dando una mano all'Agenzia delle Entrate, così che da settembre, quando arriverà la mappa degli snellimenti, includa anche la vostra proposta, fatelo pure all'800 24 00 24, questo è il numero di telefono, o mandateci un sms al 349 238 6666, poi li gireremo a fine trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Parliamo di semplificazione e da cosa cominciamo oggi? Dalla gogna per gli evasori che utilizzano in Gran Bretagna, con il governo britannico che pubblica online la lista dei 20 maggiori evasori, oppure potremmo cominciare con un riferimento agli Stati Uniti che catturarono e misero in carcere Al Capone per evasione fiscale? Parliamo, non so, magari delle pene detentive tedesche fino a 5 anni, oppure attingiamo alla lista degli evasori, cominciamo dagli orologiai, dai gioiellieri che hanno dichiarato una media di 12.500 euro l'anno. Ci sono i pellicciai anche in Italia che stanno peggio con i loro 9.500 euro di dichiarazione media annua. A me sembrano un po' sempre le stesse cose. Passera. Abbiamo uno dei livelli di tassazione più alti al mondo, naturalmente per chi paga le tasse, e questo è un'altra zavorra che dobbiamo correggere, ma naturalmente tenendo conto di quello che è successo. Tutto questo stava portando al commissariamento del nostro paese, alla fine del nostro paese dal punto di vista della sua libertà, sovranità, indipendenza. Questo è stato evitato grazie soprattutto al lavoro orchestrato e impostato e alla credibilità personale di Mario Monti, però dobbiamo sapere che ci siamo arrivati molto vicini. Tutto questo ha portato stress sulle risorse da dare al welfare. Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera parlando al meeting di Rimini, ha parlato di stress. Vogliamo parlare dello stress anche della persona fisica, dell'impresa in Italia? Mettersi in regola con il fisco occupa 285 ore l'anno. Ora abbiamo snocciolato un po' di dati, altri ne daremo, ma soprattutto vogliamo vedere se è possibile anche metter mano a delle soluzioni. E per questo ringrazio i nostri ospiti. Buongiorno a Rosanna Cerno, esperta di sistemi fiscali comparati. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a Paolo Legrenzi, ordinario di psicologia cognitiva all'Università di Venezia. Buongiorno. E a qualcuno che vive e opera in Lussemburgo, Fabio Morvilli, presidente della Camera di Commercio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a qualcuno che è in studio con me, Giovanni Parente del Sole 24 Ore, benvenuto. Partiamo dalle 10 idee per un fisco più efficiente. Il Sole 24 Ore ci si è dedicato, tu hai curato questa strada e questo percorso, Giovanni, era febbraio, il clima non è cambiato di molto nelle prospettive. Cosa chiedevano i lettori, cosa chiedono i contribuenti? Chiedono un sistema fiscale più semplice, perché così non si può andare avanti. Sono tanti gli oneri e gli adempimenti che sono stati poi introdotti nel corso degli anni anche per contrastare l'evasione fiscale, che è una piaga, come dicevi tu all'inizio, insomma, che ci stava portando anche sull'oro del baratro, come citava anche Passera. Tante semplificazioni anche sulla possibilità anche di detrarre le spese, quindi di combattere il nero con un meccanismo di abbattimento dell'imposta, conservando scontrini, ricevute per tutte le spese effettuate. Questa non è teoria, non è accademia, cioè si fa all'estero, produce dei risultati, per cui perché non provarci, quantomeno, visto che la vita dei contribuenti italiani è un percorso a ostacoli. Fabio Morvilli, lei che si è trasferito in Lussemburgo, dove fa tra l'altro il direttore della Camera di Commercio italo-lussemburghese, sente che la sua vita di contribuente è cambiata, è migliorata? Guardi, direi senz'altro di sì, intanto perché i servizi sono particolarmente efficienti, di conseguenza quando vi sono servizi efficienti le persone sono più contente di pagare le tasse. Secondo perché, nonostante il fatto che Lussemburgo, contrariamente a quello che si dice, non è un paradiso fiscale, l'aliquota marginale massima del 41% e si raggiunge abbastanza presto. Quindi le pagate le tasse? Assolutamente, si pagano, siamo contenti di pagarle. E il vantaggio grosso, come si diceva, è che si può dedurre praticamente quasi tutto. Per esempio? Ma guardi, per esempio si possono dedurre tutte le spese per recarsi al lavoro, fino a un massimo, ovvero sia spese di trasporto, intendo, fino a un massimo di 3.000 euro per anno. Si possono dedurre le assicurazioni responsabilità civile per fino a un massimo che sostanzialmente è limitato, perché dipende dal nucleo familiare, ma stiamo parlando di 700-1.000 euro a persona, perciò una famiglia di 5-6 persone può dedurre 5-6.000 euro facilmente. Si possono dedurre dei La previdenza integrativa? Assolutamente, quello che stavo dicendo, dei fondi pensione che vanno in funzione dell'età, da un minimo di 1.500 euro quando si è nella fascia più giovane fino a 3.200 euro, stiamo sempre parlando annualmente, 74 anni. Inoltre si possono dedurre spese straordinarie per malattie, perciò cose imprevedibili, per incidenti, necessità di genitori bisognosi, per cui chi si trova improvvisamente a dover sostenere finanziariamente un genitore può dedurre queste spese. Molto interessante, Fabio Morvilli, la blocco qui perché ci sono dei sentimenti contrastanti tra i nostri ascoltatori, un po' di invidia, un po' di stima, ma adesso, lasciando da parte l'emotività, perché la vita dei contribuenti italiani non può comunque essere semplificata? Perché in questo percorso a ostacoli che dicevamo prima abbiamo ormai verificato da anni che è facile che fiorisca il malcostume, prosperino gli evasori. Provare a intraprendere una strada diversa. Secondo la tua inchiesta, Giovanni, sul Sole 24 Ore, che idea ti sei fatto dai suggerimenti che ti sono arrivati da contribuenti e lettori? Cioè, mettere mano a questa semplificazione, agevolare il contribuente con delle detrazioni, porterebbe poi a un comportamento più virtuoso? Allora, in alcuni casi i risultati si sono visti, magari anche sulle spese di ristrutturazione edilizia, sulle spese di riqualificazione energetica. I famosi bonus del 36 euro 50% e del 55% ha portato obiettivamente a un'emersione del nero, di lavori che venivano fatti totalmente in nero prima e che adesso invece sono conosciuti al fisco, quindi dichiara chi effettua il lavoro e scarica sulla dichiarazione dei redditi chi ha pagato per poterlo effettuare. Quindi c'è già stato un effetto benefico? Su alcune spese sì, effettivamente si vede, e diciamo che c'è un movimento, insomma, che ha portato anche un beneficio a quei settori che sono stati interessati da queste detrazioni, anche a livello economico. Su altri il problema grave è che con i bonus fiscali, con gli sconti fiscali, è difficilmente monitorabile nel breve periodo l'impatto. C'è bisogno di un periodo comunque medio-lungo per poter verificare se c'è stata un'emersione sostenuta del reddito. Il problema dell'Italia, a differenza penso del Lussemburgo, che c'è una parte di contribuenti che il fisco non conosce completamente, perché in Italia si fa il nero totale. Chiaro. Che non esiste negli altri paesi, e quindi questo rende più difficili in misure che in qualche modo favoriscono l'emersione. E anche prevedere come arrivare a un'emersione totale. Però ci segnalano gli ascoltatori, per esempio con questo tono polemico di questo SMS, come mai non parlate mai dei dentisti che di nero sono campioni? Ora, non è che vogliamo né abbonare la categoria dei dentisti o altro. Oggi vorremmo concentrarci sulla possibilità di correggere un andamento. Tante volte abbiamo parlato proprio da questi microfoni di evasione, e di evasione totale, di evasione parziale, di comportamenti da mettere alla gogna, un po' come si fa in Gran Bretagna. Vorremmo capire se cambiando l'approccio del fisco, con un fisco anche più equo, oltre che più efficiente e più semplice, gli italiani cambierebbero anche mentalità. E lo chiediamo allo psicologo Paolo Legrenzi. Buongiorno. Buongiorno. Specializzato poi proprio in comportamenti, sì, in decisioni di tipo economico, cioè di fronte a questa pletora di adempimenti quotidiani che fa sprecare, pensate, all'impresa in Italia 100 giorni l'anno. E c'è forse anche da parte del fisco un incentivo, come alcuni dicono, ad evadere? Beh, in certo qual modo sì. Bisogna tenere presente, a mio avviso, che ci sono due perlomeno due grandi tipologie, in realtà già questa è una semplificazione. Ci sono le persone per cui il fisco è una, come posso dire, è una sciagura che ci capita nella tradizione, nell'ottica di Benjamin Franklin, la morte e le tasse, due cose che nella vita non si possono evitare, si possono posporre, si può fare... Morte e le tasse. La morte e le tasse, sì. Cioè noi nasciamo e ineludibilmente dovremo pagare delle tasse e prima o poi dovremo morire. Ma quindi un popolo di evasori può cambiare rotta secondo lei? C'è sì, qualcosa la vecchia che... generazione, se lei guarda... immaginario collettivo italiano attraverso i film, non so, i Tartassati, classico film di Steno con Totò e De Filippo, penso che tutti l'hanno visto perché l'avranno fatto sì. 50.000 volte. Lì la tassa è una catastrofe, si lotta e si cerca di evitarla, come il male, la malattia, la morte e così via. Poi c'è invece una concezione più moderna di cui si è parlato nell'ultimo, tutto l'esempio del Lussemburgo è stato fatto in, secondo questa impostazione, in cui la tassa viene concepita, rappresentata, viene pensata come un contributo del singolo ai servizi collettivi. Nella... Quindi uno paga e pensa al padiglione d'ospedale che si migliora. Io ho lavorato per molti anni, sia nella tradizione svizzero-tedesca, sia nella tradizione anglo-statunitense, da questo punto di vista sono uguali, il tax, il contribuente paga per avere i servizi. Questa naturalmente è una via sana. Perché? Perché una via sana? Perché naturalmente uno è indotto a questo punto a contribuire, non è la catastrofe come i Tartassati, Totò, dove la tassa non ha nessuna relazione con i servizi che lei ha dalla società, dagli enti locali, eccetera. La tassa è un balzello che lei deve pagare e pace. Ecco, in questa concezione però l'Italia, per l'Italia paradossalmente questa concezione è pericolosa. Perché? Perché? Perché quando uno incomincia ad affrontare le tasse con i servizi che ha, in genere viene deluso. Questo per molti motivi, alcuni per cui è difficile rendersi conto del costo. Faccio un esempio. In Italia molti servizi pubblici, gli ospedali, il ticket, non fanno vedere quanto costa veramente quella prestazione, cioè quanto lui ha di ritorno dalle tasse in quanto contribuente. In altri casi... invece è complicato per il gusto di essere complicato, io da giovane avevo libro IVA, società e così via, ho sempre visto un aumento delle complicazioni, non una diminuzione. Sì, allora, ma se si andasse, Legrenzi, verso la semplificazione, sì. Allora, secondo lei cambierebbe anche la mentalità degli italiani o siamo senza cura? Cioè quelli diciamo che vedono le tasse come un contributo dei servizi, di sicuro sì. Perché se questi poi cominciassero a prevalere, ci sarebbe la vergogna su una piaga italiana che è l'evasione totale. Perché in Italia ci sono moltissime persone che sono piccoli imprenditori, autonomi, professionisti, appunto, tutta la cura della persona, non ci sono solo i dentisti, perché adesso non abbiamo i dentisti, tutta la cura della persona. Chiaro. È talmente complicato regolarizzarli che in genere chi svolge questi servizi allora, lo deve fare in nero. Che fanno le tasse siano tonti, hanno incominciato a alzare tutte le tasse indirette, questo è un modo per farle pagare perché lei non sa cosa ci pagare. Chiaro. Però ormai si è arrivati a un livello molto alto, cioè la busta paga la gente prende meno della metà di quello che costa il tuo lavoro, questa è una follia, anche questa c'è. E torneremo con lei per soprattutto la cura a questa malattia tutta italiana, intanto il numero verde da chiamare 800 24 00 24, magari sarà una stupidata, ci scrive Eros da Verona, ma... per contrastare l'economia sommersa mi sento di proporre l'adozione del denaro elettronico per qualsiasi tipo di pagamento. In tal modo ci sarebbe una tracciabilità più chiara e minori costi di gestione del denaro contante. E anche questa infatti è una via che si utilizza, che è praticata e che ha degli effetti molto benefici oltre confine. Diamo la parola ora a voi ascoltatori, cominciamo da Prato. Buongiorno Andrea da Prato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il suo suggerimento se fosse al Ministero per lo Sviluppo Economico, per esempio. Ma io faccio una provocazione sui ospiti, una domanda e una considerazione. Sì. Io ho avuto modo di chiedere anche a degli esperti, anche a degli addetti ai lavori, questa domanda: perché non scaricare tutto capisco, 20 anni fa non c'erano macchine per gli scontrini, ma oggi, nel 2012, uno se prende un caffè prefira lo scontrino, se lo vuole scaricare, va dal dentista e chiede lo scontrino, se lo vuole scaricare, il muratore lo vuole scaricare, i viaggi li vuole scaricare. Perché non scaricare tutti? O almeno con un profilo personalizzato, ho sentito anche in Lussemburgo, più anziano sei, più potrai scaricare per la previdenza integrativa, e queste sono formule, quelle della personalizzazione del contribuente, che vengono utilizzate anche altrove. Perché non scaricare tutto, tutti? Questa è la domanda di Andrea da Prato, la teniamo in sospeso, tra pochissimo faremo partecipare anche la nostra dottoressa commercialista che scalpita per dare le sue risposte. Intanto andiamo a Brescia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a Mustafa, buongiorno. Dica. Scusi, io volevo prima. Impossibile. Mustafa, sia gentile, lasci il numero in regia, verrà richiamato quanto prima, e se ha un fisso ancora meglio, perché c'è una problematica tecnica di grande eco. Rosanna Acerno, specializzata in sistemi fiscali comparati, ha sentito tantissimi stimoli in questa prima parte di trasmissione. Il discorso è sempre quello: evasione ed emersione dal nero sono due fenomeni correlati. Se ci fosse la possibilità di scaricare di più, si potrebbe instaurare un meccanismo virtuoso anche in Italia, o proprio ce l'abbiamo nel DNA questo amore per l'evasione? Ma onestamente bisogna precisare una cosa, che sì, comunque è una leggenda quella che all'estero si scarica tutto. Io sento spesso dire che negli Stati Uniti tutto è deducibile. Onestamente sono una persona che studia proprio questi sistemi tributari, sì, all'estero, e io tutte queste cose non le vedo. Vedo sicuramente diciamo cose diverse rispetto al nostro paese, ma non per questo migliori o peggiori, insomma sono sistemi diversi. Rispondendo all'ascoltatore, beh, di però prima, scusi Rosanna, è previsto un credito di imposta del 35% sulle spese sostenute per golf, babysitter, badanti. Si possono scaricare tutte le spese di ristoranti Italia, se si portano Italia, persone allora, fuori per lavoro. Si possono scaricare, io lo dico perché ho vissuto anche in Nord America, moltissime cose legate alla propria professione di cui qua non si tiene proprio traccia. Cioè se uno fa il conduttore, perfino le spese per il cinema e per l'aggiornamento culturale, chi qua conserverebbe lo scontrino del cinema per portarlo dal fiscalista? Si possono scaricare le spese sportive per i figli. Come fa a definire tutto questo leggenda? Allora, onestamente, qui in Italia abbiamo un problema innanzitutto di gettito, però ci sono delle detrazioni, cioè vuol dire sottrazione dalle imposte o deduzioni, quindi in Italia sono comunque previste. L'unica cosa, secondo me, che andrebbe fatta e andrebbe riorganizzata tutta questa struttura, perché forse ce ne sono troppe, diversificate per ciascuna tipologia, quindi è anche difficile, quasi quasi costa più il commercialista che deve pensare a tenere tutta questa contabilità piuttosto che il risparmio vero. Sulla questione che poi poneva l'ascoltatore sugli scontrini, a parte un problema di gettito, ma non posso pensare che in nessun paese uno scontrino possa essere dedotto dal reddito, perché vuol dire che allora io li raccolgo per strada. Ma non è vero per niente. Prima di tutto non si lasciano per strada proprio perché li puoi dedurre. E poi allo scontrino di $83 che oggi porti per il ristorante corrisponde sul tuo conto corrente un'uscita con carta di credito o l'equivalente del bancomat di $83. Quindi lo scontrino non lo lasci per strada, e la verifica che appartenga a te è piuttosto semplificata. Cioè non funziona così. E tutti coloro che hanno vissuto all'estero lo sanno benissimo. È una via così impraticabile, Giovanni Parente? In Italia esistono 720 agevolazioni fiscali, tra sconti, bonus, detrazioni. Quindi insomma, non è che non ne abbiamo detrazioni fiscali. Le spese per le attività sportive dei ragazzi si detraggono al 19% alla dichiarazione dei redditi. Quindi insomma, abbiamo anche spese diverse e un po' a volte sovrapposte che si possono detrarre. Il problema principale è una complessità del sistema fiscale che si è venuta stratificando nel corso degli anni e, diciamocelo chiaramente, un peso eccessivo delle tasse rispetto ai redditi percepiti, soprattutto ai lavoratori dipendenti. Questo porta, come dire, a vedere con profondo astio il fisco, a vederlo come il sistema del tartassamento e non il sistema della produzione della fonte di reddito da cui in qualche modo generare servizi per il bene comune. Quello che si può fare è sicuramente puntare sulla direttrice, insomma, in qualche modo di più della tracciabilità. Un anno fa le imprese l'avevano chiesto nel manifesto per l'Italia, l'avevano chiesto, insomma, sostanzialmente di puntare sulla tracciabilità. Un passo avanti è stato fatto dal decreto Salva Italia di dicembre, che ha portato il limite per gli acquisti in contante a 1000 euro. Forse si può fare ulteriormente dei passi in avanti. Si potrebbe provare magari un meccanismo che ha citato anche il presidente dell'Istat Enrico Giovannini, che è stato presidente della commissione sull'economia sommersa, cioè quello di una sorta di fiscal card, vale a dire un meccanismo per cui lo sconto fiscale per le spese sostenute sia immediato e diretto. Forse è questo il più grande limite delle detrazioni. Cioè, delle cosa fiscali. Intendi per immediato e diretto? Vado dal dentista, vado da un medico o da un autonomo che mi fa un lavoro in casa. Quanto pago per quella prestazione che mi viene in qualche modo fornita, riesco in qualche modo a scontarlo dalle tasse immediatamente attraverso un meccanismo di carta di credito fiscale. In cui poi con lo scopo specifico di tenere, diciamo così, contezza di tutto ciò che è la movimentazione annua dell'individuo, dell'impresa, che può avere un'incidenza. A costringere il professionista e l'impresa a farmi la fattura, quindi a dichiarare il lavoro che sta facendo, a dichiarare poi il ricavo in dichiarazione dei. Emersione dal nero si combatte così? Se tutti scaricassero, chi pagherebbe le tasse? Ci chiede Anna al 349-238-6666 con un messaggio SMS. E attenzione, basta contanti è un altro degli slogan dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo per contribuire a questa discussione. Voi come la pensate? Soprattutto quale sarebbe il primo intervento che potrebbe generare un meccanismo più virtuoso, secondo voi? Ditecelo all'800 24 0024. Ora meteo. Salva Danaio. Ancora buona giornata da Irene Zerbini, 31 minuti passati dopo le 12 per parlare di fisco e per parlarne con un approccio diverso oggi. Cioè, noi vorremmo capire, chiaro, senza sconti per evasori totali, un fenomeno completamente italiano, se un fisco più amico, soprattutto percepito come più equo, potrebbe portare a una modifica dei comportamenti degli italiani. Un fisco più leggero, ma soprattutto più semplice. Questo determinerebbe un calo di quella avversione al proprio dovere che sembra caratterizzare il popolo italico, ci è stato detto anche da Paolo Legrenzi, quando si ha la percezione che un po' lo sforzo che si fa vada a incidere sul miglioramento dei servizi, in Italia come altrove si paga più volentieri. Quella dovrebbe essere una strada da percorrere. Paolo Legrenzi, lei che è specializzato in queste scelte che stanno alla base dei processi cognitivi della finanza, l'individuo di fronte ai soldi si comporta in maniera sempre un pochino strana e non sempre razionale. Ma secondo lei, se anche lo Stato facesse il suo dovere in tempo, per esempio io penso un fenomeno a caso, i rimborsi IVA, no? E a questi ritardi che hanno messo in ginocchio le aziende in Italia, se anche lo Stato si dimostrasse efficiente, premuroso, attento, cambierebbe l'atteggiamento del contribuente italiano, professor Legrenzi? Quello cambierebbe. Naturalmente il problema è come riuscire a fare questo in questo paese, perché sono state sollevate molte giuste osservazioni anche di natura tecnica sui modi, scaricare le tasse, tutto quello che è stato detto prima, scaricare le spese, eccetera, la tracciabilità e così via. Però c'è anche contemporaneamente la necessità di una battaglia culturale. Mi ha fatto colpo che l'altro ieri i giornali davano notizia che in Grecia c'era stata una sommossa in un isolotto perché avevano arrestato il proprietario del ristorante più chic in voga, perché era totalmente in nero. Cioè, la Grecia è un paese simile per la presenza di neri totali all'Italia. Perché questo? Anche perché la struttura produttiva dei servizi, il turismo, ad esempio, io abito a Venezia, il turismo è molto difficile da come settore, diciamo, da irrigimentare eliminando il nero, anche perché le categorie sono molto potenti, le categorie, ci sono intere categorie che vivono sul turismo, che fanno un nero pressoché totale, e sono poi le stesse categorie, capisce, che votano i politici, cioè l'intreccio è complesso, non bisogna sempre avere un'idea dello Stato lontano, le tasse pagate allo Stato che servono a sanità e pensioni, è molto articolato, gli enti locali hanno aumentato moltissimo il carico fiscale, però in certi settori e non in altri. Quindi ci vuole anche una battaglia culturale, la battaglia culturale va fatta nel senso che chi non paga le tasse non è un furbo, è un delinquente, bisogna passare da una categoria, che era la categoria in fondo della cultura dei Tartazzati, che raccontavo prima, di Totò, eccetera, alla categoria... È una categoria che condanni, che induca vergogna, ecco. Quindi non la pacca sulla spalla, l'hai fatta franca quest'anno, ma perché invece... se lei non ha prevalente questa cultura, tutte le soluzioni tecniche invece non sono... Si dimostreranno inefficaci, secondo lei. Sono inefficaci e diventano complicazioni incredibili poi per l'onesto. E invece io la penso diversamente da lei, professor Legrenzi, me lo permetta. Cioè io penso che cominciare col mettere mano a una semplificazione, a un comportamento proprio, non a una teoria, che faccia vedere, faccia cogliere un risultato immediato, poi induca... di conseguenza altri comportamenti virtuosi in quella direzione, per cui se ci vogliono 41 procedure per far rispettare un contratto in Italia e 1210 giorni per ottenere una sentenza che tuteli l'impresa, se siamo sempre ultimi nel primato della competitività proprio anche per quanto la nostra burocrazia in generale, non solo l'Agenzia delle Entrate, è bizantina e farraginosa, probabilmente cambiando e semplificando questo tipo di pletora di adempimenti quotidiani potremmo recuperare anche qualche punto di PIL. Abbiamo recuperato invece magari Mustafa, l'ascoltatore con cui avevamo un problema tecnico? No. Allora diamo la linea a Roma. Giuseppina, buongiorno. Buongiorno a lei. Giuseppina, dica. Buongiorno, io ho ascoltato molto volentieri anche tutti i suoi ospiti che sono intervenuti con la loro importanza sociale, ma io penso che sia un discorso inutile e fazioso, questo come quello di ieri sera sugli sprechi, per un semplice fatto, in quanto secondo me la nostra Costituzione dice che i nostri governanti sono esenti, possono dire tutto, ma da qualsiasi procedimento solo in tempi di guerra. Adesso non lo siamo. Allora noi dovremmo chiedere ai nostri governanti cosa ci proponete di fare, e loro non devono dire qualcosa di generico. Faccio un esempio, farò un paio di occhiali a tutti perché io me li immaginerò di diamante, un altro diranno di scarsa qualità la plastica, ottima la lente, se tu non me lo fai mi devi dire dove sono andati i soldi o perché non lo hai fatto. Allora, se i nostri governanti anche nei discorsi che voi fate li rendete anonimi, astratti, io cioè lei quindi invoca una maggiore responsabilità di chi ci guida, sia a livello locale che a livello regionale che a livello statale, così da poter fare in modo che ci sia un confronto in cui il contribuente, che poi è naturalmente anche un elettore, possa decidere alla prossima tornata elettorale se confermare la persona che si è resa responsabile di una mancanza, se confermare la fiducia o viceversa cambiare. Certo, questo è un tema legato anche al sistema elettorale in Italia, e senza dubbio poter rispondere di persona di quanto si promette poi non si fa porterebbe a grossi benefici. Intanto da Verona Stefano, buongiorno. Pronto? Buongiorno a lei. Pronto? Buongiorno, sì. A lei, ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Sì, Stefano, un dica. Un paio di puntualizzazioni veloci. Sì, sì. Primo, il dentista, sì, lui mi dà uno sconto del 30% a fronte del 22% che potrei recuperare presentando la fattura al mio commercialista. Ma quegli 8 punti lì che lui mi fa in più, quanto costano poi a me e a tutti quanti, visto che lui magari gira con i Maserati, io no? Quindi dobbiamo pensare bene, perché siamo proprio noi per primi. Interessante, cioè lei sta invitando a pensare alla gente anche quanto perde quando pensa ad aver guadagnato, certo, quei quei 60 euro, non so io. Esatto, ma mettiamo anche quegli 8 punti su 2000 euro, sono 160 euro, ma quanto mi costa poi a me negli anni futuri? Ottimo, e quanto costa la collettività questa evasione? Ah, certo, non penso solo per me, penso un po' per tutti. Poi, seconda puntualizzazione, gli scontrini. Cominciamo a fare come le farmacie, che hanno il torre ottico. Ormai il torre ottico le hanno anche i bar. E mi faccio lo scontrino, bene, lettore ottico con il mio codice fiscale o con qualsiasi tessera sanitaria o qualcosa, e quello scontrino è mio e solo mio, e posso presentarlo al e va direttamente collegato al mio numero di codice fiscale, per esempio. Stefano, grazie per queste sottolineature importanti e che hanno anche un altro pregio: fattibili, concrete. Giovanni Parente, Sole 24 Ore, è vero o no? Assolutamente sì, sembrano due proposte di buonsenso. Il problema è sempre ragionare per il bene comune, non per il proprio tornaconto immediato personale. È purtroppo un dilemma che l'uomo si pone da quando è su questa terra. Però insomma mi sembrano interessanti le due proposte. Diceva Stefano, il nostro ascoltatore, il risparmio che posso fare in seguito a una specie di accordo col dentista, adesso non mi piace additare necessariamente solo una categoria, o comunque con qualcuno che si dice disposto a farmi risparmiare purché in cambio lui ottenga il privilegio di non emettere fattura. Quel risparmio quanto costerà in termini di servizi alla collettività tutta? Anche questa è una riflessione sulla quale soffermarsi. Vorrei tornare alla nostra fiscalista per girarle la domanda degli ascoltatori. Rosanna Cerno, appunto, ci chiedevano: ma se tutti scaricano, poi ci sarebbe in questo modo un'incidenza sul gettito terribile, chi pagherebbe le tasse? E infatti quello che dicevo, ecco perché non si fa. Tra i motivi per cui qui in Italia non è possibile questo è anche proprio un problema di gettito. Io sarei comunque in via generale, generica, per cercare di creare una contrapposizione di interessi. Lo so che è dato per scontato, però ecco, se forse il nostro legislatore ci consentisse di detrarci per intero le spese mediche, il dentista nemmeno ci chiederebbe più se farci o non farci la fattura, perché noi avremmo convenienza ad averla, perché non è più il 19%, ma è complessivamente, cioè tutte le spese mediche che io sostengo, oppure appunto le spese che sostengo per avere una donna di servizio, una colf, una badante, una babysitter. Se si potesse fare questo, ovviamente io sarei la prima ad essere incentivata, perché ho una contrapposizione di interesse. Il successo, quello che diceva Giovanni, del 36% per la ristrutturazione. Ovviamente questo associato a mezzi di pagamento tracciabili, cioè dove nessuno può fare più il furbo. E poi onestamente al non di si là, può diciamo più dire, che non può più usare quell'aggettivo però. Ah ok, è vero. Però non può fare più il delinquente, questa, deve dire. È vero, al di là di questa situazione la verità è che comunque occorrerebbe cambiare sì la mentalità. Le faccio presente anche un'altra cosa, al di là della contrapposizione di interessi, non ci dimentichiamo che da qualche anno è stata abrogata la sanzione in capo al cliente se viene trovato dalla Guardia di Finanza privo di scontrino. Allora, secondo me, reinserire e reintrodurre nuovamente questa sanzione potrebbe essere utile. Sì, anche perché, dal punto di vista della responsabilità. Perché io adesso potrei avere, io no personalmente, però mi rendo conto che molte persone se vanno al bar o vanno da un'altra parte in pasticceria, anche per importi piccoli, magari hanno vergogna di chiedere lo scontrino, visto che sì, un po' come dare dell'evasore al cassiere, un po' come esatto. Dire allora a quel punto, se però io so che fuori ci può essere una pattuglia della Guardia di Finanza o i funzionari dell'Agenzia delle Entrate che legittimamente mi possono fermare e quindi mi chiedono lo scontrino, io sono anche come dire più invogliato a chiedere al negoziante lo scontrino, perché ho un mio interesse, al di là che dovrei avere l'interesse di far pagare a tutti come pago io, però ecco, c'è anche questa cosa, quindi secondo me Rosanna Cerno, è molto importante anche questa sua indicazione. Le chiedo tra l'altro, visto che la complessità del fisco è il suo pane quotidiano e scoraggia anche gli investimenti degli imprese, quante sono le imprese straniere che stanno alla larga dall'Italia proprio non tanto e non solo per il carico fiscale, ma proprio per l'impossibilità di decifrare un fisco come questo. Ieri ci siamo occupati di sostegno alle famiglie e molti ci hanno scritto dicendo: caro Salvadanaio, sarebbe bello non solo ricevere assegni per i figli, ma basterebbe che le spese che si sostengono possano essere detraibili. Per esempio, ci indicavano le spese per gli asili nidi e le spese per le ripetizioni private. Sa quando c'è bisogno di recuperare i crediti o semplicemente il figlio o la figlia sta seguendo un corso di inglese nel pomeriggio. Cosa succede in questo caso e come regolarizzare, se si è gli insegnanti, per esempio, quell'entrata? E a nostra volta, se si è i genitori, come far sì che non si vada ad alimentare del nero? Ci risponderà tra pochissimo. Ora andiamo sulle strade d'Italia a vedere la situazione del traffico. Salvadanaio. 45,2%, per dare ancora qualche numero, questo è il livello medio di pressione fiscale in Italia, 68% il peso sulle aziende, secondo Confindustria, dunque siamo al top. Diamo una notizia positiva, altrimenti è veramente disfattista. La lotta all'evasione ha un primo dato. Nei primi sei mesi del 2012 sono stati recuperati dall'Agenzia delle Entrate 7 miliardi di euro. E sulle imprese, su questo particolare sistema e quadro fiscale che dà poche certezze anche agli imprenditori, torneremo tra pochissimo. Abbiamo una domanda in sospeso, riguarda una piccola pratica quotidiana di molti genitori: le lezioni private di pomeriggio. Dicevamo, Rosanna Cerno, come regolarizzare questa situazione? Allora, regolarizzare intanto dovrebbero essere coloro che fanno lezioni private, quindi questi insegnanti, questi tutor, perché o dovrebbero avere una partita IVA o comunque, se si tratta di prestazioni occasionali, dovrebbero rilasciare una ricevuta ai genitori che pagano queste lezioni private. Il problema però qual è, ovviamente? Intanto la pesantezza del sistema, cioè il sistema è molto farraginoso. E poi mi dispiace dirlo, ma non c'è contrapposizione di interessi, cioè il genitore tutto sommato non ha questo grande interesse a richiedere la ricevuta o la fattura da parte dell'insegnante, sperando magari in uno sconto. Perché? Perché non potrà mai dedurre o detrarsi quelle spese che ha sostenuto. In altri invece paesi, all'estero? Come in Francia, come anche in Germania, per non parlare poi dei paesi come la Norvegia, la Svezia, questo è consentito. Quindi c'è questa possibilità di dedursi per ciascun figlio che va a ripetizione queste imposte. Ovviamente a fronte di questa deduzione c'è l'insegnante privato che dichiara quel reddito. Grazie. E quindi, Rosanna, e quindi la strada è tracciata, cioè non stiamo parlando di nulla di teorico, come importiamo la baguette o la musica rock, non capisco perché, visto che questi nostri governanti viaggiano in continuazione, non si può spedire una delegazione oltre confine per studiare alcuni dei sistemi fiscali e mutuare semplicemente così the best practice. Noi abbiamo degli ascoltatori che vogliono dire la loro, partirei da Roma. Buongiorno Manuela. Buongiorno. Senta, io volevo parlare degli affitti, visto sì. che io sono un'affittuaria e pago la bellezza di quasi più del 50% dell'affitto che mi viene versato, ovviamente. Pronto? Che succede? Pronto? C'è una censura no. sugli affittuari, qualcuno l'ha c'è tagliata. La censura, sì, no, alla parola affittuaria hanno tagliato il microfono, non so perché. C'è una lobby probabilmente. Probabilmente. Continui, ma Manuela. Proprio, sì, dicevo alla sua collega che proprio ieri sera mi è capitato di essere a cena con un amico che da 11 anni è in affitto in un appartamento in nero a Roma e dove è residente. E dove paga tutte le utenze che sono intestate a lui. Ora io mi domando com'è possibile, visto che le amministrazioni locali, quando uno chiede la residenza in un luogo, fanno i dovuti controlli, addirittura qui a Roma vengono i vigili urbani a vedere se effettivamente la persona vive in quell'appartamento. Com'è possibile che non esistano dei controlli incrociati a riguardo? Io vivo nell'appartamento di chi? Pago le utenze intestate a me, perché le pago se non vivo in quell'appartamento e se non ho un contratto di locazione? E si tratta di palazzine intere, come sapete, insomma, Roma è uno dei luoghi dove questo fenomeno. Io vivo nel quartiere di San Lorenzo, che è un quartiere degli studenti qui a Roma. le posso assicurare che è talmente evidente, talmente smaccata la pratica del nero negli affitti che, insomma, vorrei sapere che cosa succede, perché l'amministrazione... E perché, visto locale, che parliamo sempre di computer, di quanto tutto ormai sia digitale, perché non scatti automaticamente un controllo sulla regolarità dell'affitto quando c'è un'utenza intestata, Giovanni? Dovrebbe succedere in realtà, perché c'è un catasto elettrico, c'è c'è comunque, sono delle banche dati che permettono di incrociare dei dati e di vedere se c'è del nero su delle locazioni. Ecco, io mi permetto con molta discrezione comunque di dire che anche qui in questo caso l'inquilino, se vuole potrebbe farlo emergere questo nero da parte del soggetto, del proprietario di casa. E anche quella è una scelta di convenienza, perché magari così lui di convenienza miope, però, come ci ha fatto notare l'ascoltatore, nel senso che la paghiamo tutti in termini di collettività, di minori servizi, di scuole che non hanno nemmeno i banchi o la carta igienica, di liste d'attesa che si allungano negli ospedali, cioè ci sarebbe anche quello da misurare. Esatto, lì è stato fatto qualcosa con la cedolare secca, che è un meccanismo di tassazione forfettaria del canone di locazione, cioè il proprietario a convenienza viene tassato insomma con un plafond del 19-21%, e in questo caso ha la convenienza a far emergere il contratto di locazione in nero. È chiaro che questi sono incentivi, l'attività di controllo deve essere sempre più mirata, e in questo senso però l'ascoltatrice ci dice una cosa importante, che è determinante il ruolo dei comuni, perché il controllo dei territori ce l'hanno solo i comuni. L'Agenzia delle Entrate, per quanti controlli possa e voglia fare, non riuscirà mai ad avere una padronanza capillare del territorio, quindi i comuni diventano assolutamente essenziali. Però anche lì l'aliquota del comparto non abitativo, adesso sto parlando visto che sì, siamo in tema di tasse, dell'IMU può passare dallo 0,76% all'1,06%, anche queste percentuali difficili da tenere a mente, io cioè, proprio le eliminerei arrotondando. Ecco, e questo è un livello massimo su scelta del comune. Abbiamo aperto un altro capitolo proprio per stare in un tema molto attuale, quello dell'IMU. Tutto questo si saprà, e ce lo sottolinea Salvatore Padula sul tuo giornale, sul Sole 24 Ore, solo a dicembre. Ora immaginate che un'impresa che abbia un capannone può pagare o meno un conto che ondeggia dai 10 ai 13 mila euro e lo saprà solo a dicembre. Come si fa a fare una programmazione? Cioè, di fronte a questo tipo di situazioni, anche su interventi recenti come l'IMU, non si poteva pensare a qualcosa di più semplice per le imprese? Bisognava pensare a qualcosa di più semplice. L'IMU, diciamocela tutta, è stata una toppa messa lì per recuperare gettito immediatamente, perché serviva per in qualche modo andare incontro alle richieste dell'Europa e in qualche modo calmare la speculazione sull'Italia. Quindi bisognava trovare più o meno 20 miliardi di euro, e lo è stato fatto reintroducendo la vecchia ICI, che ora si chiama IMU, su abitazione principale, e in qualche modo rimodulando verso alto le aliquote sugli altri, gli altri tipi di immobili. Ma tenendo fermo lo scopo, non lo si poteva fare in maniera più semplice e poi che consentisse una certezza di programmazione alle imprese? Apro un capitolo a parte, perché se parliamo di evasione e parliamo di rapporti col fisco, parliamo di certezza. Quando siamo imprenditori avremmo bisogno di certezza per capire come investire, come costruire, come pagare i salariati l'anno prossimo. Assolutamente, c'è un problema, diciamo che sull'IMU tutto quello di complesso che si poteva fare è stato fatto. Quindi, quindi ci si è sforzati, al massimo. Ecco. Obiettivo raggiunto. Speriamo che per l'anno prossimo si adotti una prassi un po' più semplice per tutti. Per quanto riguarda le imprese, permettimi di dire che insomma ci sono problemi anche legati agli accertamenti, perché ci sono ovviamente imprese che vogliono legittimamente sapere quali norme adottare, quali regole adottare per conseguire un risparmio fiscale, e si trovano sempre più di fronte a contestazioni milionarie anche da parte dell'amministrazione finanziaria di una locuzione molto complessa, si chiama abuso del diritto, ma in realtà che contesta le scelte economiche fatte. Su questo l'Italia deve in qualche modo darsi alle regole, perché deve dare un clima più certo in cui operare alle imprese, soprattutto a quelle straniere che vogliono venire investite qui e che poi a distanza di anni non si devono vedere contestate cifre enormi per aver operato scelte che sono da un punto di vista economico pienamente legittime. Ma le imprese in Lussemburgo invece ci vanno volentieri, perché è la nazione che si guadagna i primi posti nella classifica della competitività e anche perché è semplice starci, io credo. Fabio Morvilli, lei che in Lussemburgo vive, cos'è che rende così attrattiva la sua terra? Ma diciamo, per quanto riguarda le imprese, senz'altro anche lì c'è un regime di tassazione che prevede delle deduzioni fiscali che sono interessanti, l'aliquota fiscale media per le imprese è intorno al 30% circa. Ovviamente c'è anche un costo del lavoro che, benché elevato, perché gli stipendi sono nettamente superiori a quelli che a quella che è la media europea, comporta dei costi per l'impresa relativamente bassi, nel senso che l'impresa paga circa il 10% su quello che è lo stipendio lordo come costi per il lavoratore, e altrettanto ne paga il lavoratore. Per quanto riguarda quanto paga l'impresa in Italia sullo stipendio lordo del lavoratore, parente? Sono cifre variabili, comunque anche oltre il 50% a volte, certo. Tra tributi e contributi. Quindi, perciò, esattamente, perciò bisogna considerare il tutto, e alla fin fine anche, è molto più semplice. Inoltre è anche molto più semplice la gestione dei lavoratori, che significa favorire nuovi ingressi, e nei momenti di recessione economica ovviamente anche licenziamenti più facili, che è un must. Volevo tornare soltanto un attimo sul discorso spese mediche per dire che poi la soluzione non è soltanto quella della deduzione, ma è anche quella proprio della sicurezza sociale. A Lussemburgo le spese mediche vengono sostanzialmente rimborsate, io scelgo il medico dove andare, dopodiché lo pago con un trasferimento di banca e poi mi viene rimborsata una cifra. Ma in contanti, lo sottolineiamo, e poi viene rimborsata una cifra. Velocissima, Marcella da Milano, buongiorno, riesce in 30 secondi a farci sapere qual è il suo stimolo, qual è il suo suggerimento? Sono le frodi fiscali giornaliere. Ieri in un centro commerciale prendo 3 gelati da 2 euro, poi mi accorgo che lo scontrino che è stato battuto è di 4 euro. È tornata indietro? Ha chiesto no, non ragione. Sono tornata indietro perché me ne ero accorta tardi. È una della, comunque una delle pratiche, spero non così in voga, però ancora diffuse in Italia. Antonio da Monza riesce a battere Marcella per capacità di sintesi? Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo solo dire che insomma sembra di pagare comunque le tasse per non avere nulla in cambio, almeno io non ho grossi problemi per cui devo ricorrere ad alcune situazioni. Però insomma, se lavorassimo su un concetto di servizio, magari la gente vorrebbe pagare più le tasse più facilmente. Se lo Stato se percepisse tutto in cambio certo, insomma, un miglioramento del servizio. Se vado in un ristorante, c'è un buon servizio e pago anche bene, se no lo cambio. Un'osservazione psicologica questa, quindi chiamo in causa naturalmente lo psicoeconomista, oggi nostro ospite, Paolo Legrenzi. È così? Se ho la percezione di avere un servizio maggiore, la gente pagherebbe più volentieri? Ah, non c'è dubbio, è una variabile cruciale. Collegare, capisce, perché questa è una cosa che le persone fanno sempre, comprano un servizio. In questo caso, quanto più lei riesce a collegare questi due aspetti, quanto meglio è. Quindi purtroppo non siamo evasori incurabili, con un fisco migliore forse anche noi miglioreremmo. Ma certo, non c'è dubbio, non esiste l'idea che gli italiani siano evasori è una panzana, è l'idea che le persone siano costitutivamente oneste, non è vero nulla, le persone cambiano secondo le circostanze. Quindi non è vero che noi siamo furbi e gli altri tutti santi, parente? No, assolutamente, anzi. Dice che l'occasione fa l'uomo ladro. No, però volevo... bravo, l'occasione fa l'uomo ladro. Grazie, grazie a Paolo Legrenzi. Concludiamo con Giovanni Parente. Fossi tu a decidere la prima detrazione che inseriresti? Credo quella sulle spese mediche. Sulle spese mediche, questa è la priorità secondo te? Grazie per tutti i vostri stimoli. Dobbiamo concludere, grazie a Rosanna Cerno, a Fabio Morvilli, a tutti voi che avete partecipato a questo Salvadanaio che ritorna domani a mezzogiorno. Buona giornata da Irene Zerbini.